Luca, non la dici? Che? Muccolo! Allo? Allo? Ciao Claudio, buonasera! A me già, com'è? Ah, siete il riposo! Bene! Aspetta, leggiamo un messaggio! Allora, non si è sentito nessuno stasera? Eccomi! Abbonato, non si è sentito nessuno stasera ancora? 0-0-0, ancora niente. Sì, vabbè. Adesso sono abituato ad entrare tutti alle 7:30, io a quell'ora, massimo 8, meno qualcosa, mollo. Che poi mi mostriamo il cane e via. Ma è pure venerdì domani. Domani sera ci andiamo in campagna. Sembra che faccia bella giornata a fine settimana. Se fate un po' brutto non ci andiamo, se fate un po' bello ci stiamo in campagna. E vabbè. E quindi, bucate bene, dicevo, che si antenna. Ho scaricato un po' di materiale. Sotto consiglio di Giulio. Insomma, ho trovato un po' di roba, anche su YouTube ho visto che ci sono degli esperimenti. Sì, ma se ti metti da una mano anche Giulio così, anche telefonicamente, poi è molto disponibile, non ce n'è problema. Se vi vedete ti fa vedere come si fa e la fa immediatamente. Anche Franco, se l'ha fatta da solo Franco, quindi. Ed è una soluzione ideale, come ti ho già accennato, perché va bene, va benissimo alla grande. La metti lì, dove è strutturato quella, e secondo me esci molto molto bene. Grazie a Dio la fantasia già non mi manca. Sant'Arrangia di MacGyver è stato una grande ispirazione, quindi ha voglia di fantasia nel fare le cose, quindi per quello sono a posto, non ci sono problemi. Adesso piano piano mi recupero il materiale e inizio a lavorarci, capito? Kappa, io non ne ho di coso, di come si chiama, di antenna, di antenna, mi dicono a pesca, se no tra le date la grande, non maggio. No, che ti ripeto, Gianni, vabbè, non sta più entrando la sera perché è lavoro. Magari se senti a Gianni un fine settimana, lui a chiedere se c'è qualche canna a pesca vecchia che non usa e te la bigli. Ma ti ripeto, guarda che una canna a pesca costa una fesseria, proprio una fesseria, capito? E poi per il resto già è facile fare tutto il sistema. Sì, ho visto. Stavo leggendo le specifiche, le misure del capo, i vari appoggimenti. Cioè, è tutto abbastanza facile, non ci dovrebbe essere complicazioni, dai. Molto, molto semplice. Una volta che rispetti quei parametri, dovrebbe essere filare tutto liscio come l'olio. Niente, ma adesso mi è venuto in mente quello di ieri sera, sicuramente qualcuno della Matterland, Guido 32-32. Allora cos'è? Non era lì, ma come hai visto ci ho messo poco, io ero sparito subito, poi c'ho altri elementi, proprio che puntata a Piazza dei Segni a nord, monobanda, ho dato un po' di gas, già ho aumentato il segnale a Sorso a Franco. Immagina già da Edo, è sparito subito. Come ci faccio? Senti che il canale è occupato, che c'è gente e tutti buoni a dar numeri. 32, 46, sgonfia il pallone, apri il pallone, boh, in alto all'asso. Li copriva tutti, tranne a Marco. Qua arrivava forte, qua c'aveva un bel segnale. Infatti ogni tanto è passato anche sopra Giulio, sopra Marco. Vabbè, è così a metrica. pensavamo di essere soli, invece vedi, c'è sempre qualcuno ogni tanto che fa queste stronzate. Vabbè, comunque è sparito, non è successo niente, non l'abbiamo preso a parolacce, abbiamo solo detto gentilmente di andarsene. Non se ne andava, allora l'abbiamo mandato via, con le buone maniere l'abbiamo mandato via. Aspetta che se come nel casino ho acceso quel Midland, quello che ti ho detto che c'aveva il tastino MFM, ho provato a accenderlo, ha funzionato per un po' e poi praticamente adesso non mi va più in trasmissione, né in AM né in FM, boh. Ma quanti anni era fermo? Era, anche questo era dentro un camperino, no, cioè buttato dentro un cassetto, dentro il cassettino, quindi l'ho aperto e si vede che è già stato toccato, ci sono segni di saldature toccate, quindi presumo che qualcuno ci abbia messo già a mani. Aspetta, sono entrati in stanza i terroristi qua. Okay. Scusa, non penso se sono entrati i terroristi, è entrata mia moglie e mia figlia, e quindi quando entrano loro bisogna smettere di trasmettere. Scusa, mi sono allontanato un attimino, ho provato a farlo ripartire, ma ogni tanto è a sbarione sta cosa. Sì, aveva dei falsi contatti, quello vuole aperto, pulito, dato una bella spruzzata di spray per contatti, per far sì che si ammorbidiscano un po' tutte quelle saldature che ci sono, una bella passata di trenina col pennellino, sopra circuito stampato, spray sui potenziometri, perché anche quello incide, il potenziometro, se non anche con interruttorini AM, FM, se non scattano bene, non aprono e chiudono, non te la dà la banda, quindi bisogna farlo bene. Bisogna sistemarlo e vedrai che funziona. Io ce l'ho 10 anni dentro l'armadio, alla 48, ogni tanto, ma quando mi ricordo lo tolgo, lo attacco e lo faccio andare, ma è sempre perfetto. Evidentemente quello era emettere l'umidità. Eia, eia. Adesso appena c'ho... Oh, pazienza ci vuole. Adesso l'ho richiuso, magari un altro momento lo riapro e... armato di buona volontà e pazienza gli do una bella pulita. Esternamente gioco bene, internamente guardato non è così sporco, però magari una controllatina è che ti buoni dei bicciti col circuito stampato, dopo che stai un pochettino a contrarre determinate cose, dopo praticamente mi ne scini rocci con i bicciti, quindi stamattina ho mollato tutto, l'ho richiuso e ciccia. Vabbè, ma ci vuole quello spray, non è che lo apri e ti abbaibbi e odora sarà. Ci vuole quello spray per contatti, quello a secco, dare una bella, prima una bella soffiatina, poi col pennellino una bella pulita con la trilina e poi una bella spruzzata di quello e provare a muovere tutti i potenziometri, i cosi, insomma, e vedere un po', accenderlo. Eia, eia. Sì, anche questo va fatto. Lo faremo. Fatto vuole anche quello, Gianni, fatto. E io una scatola ne ho messo a posto, non ho fatto niente perché non ho riparato niente, però anche quelli che ho io adesso sono tutti a posto, messi in ordine dentro la scatola, erano così, accendeva, qualcuno bisognava prendere a colpi per la ricezione, quell'altro non funzionava lo Smith, quella capito, stronzate, e li ho tutti messi a posto così, aperti, puliti, dato lo spray per contatti, ho visto che adesso viaggiano alla grande. Sì, e beh, ci vuole la manutenzione ogni azzardo. Ho trovato praticamente su internet il libro di manutenzione di quel Midland in francese, visto che ci sono i circuiti stampati sopra e sotto, con la visione da sopra e la visione da sotto, e così me lo scaricato, così me lo controllo magari anche a livello elettrico, perché visto che praticamente c'era un'incertezza, c'era un piccolo condensatore a pasticca verde, adesso non ce l'ho qua a portata di mano, praticamente era punticellato tra l'attacco del PL, qui andava saldato al circuito stampato e praticamente faceva, praticamente questo condensatore era tra il polo caldo dell'antenna e poi era cortocircuitato a massa. Ho guardato lo schemino, però quel tipo di collegamento lì nel manuale non c'è. Ma cosa serve? Non ho capito. A cosa serve? Non lo so. Vabbè. Modifiche ne fanno tante nei baracchini, però chi le fa sa quello che sta facendo. Se uno poi lo prende così, vede queste cose, non capisci perché è stato fatto, ma lo toglie e non funziona. E seguilo bene, vedi che cos'è e cosa non è. No, adesso l'ho staccato praticamente, l'ho ripristinato, il collegamento originale, anche perché il PL dietro non era ancorato benissimo, si muoveva un pochettino, quindi l'ho risaldato bene praticamente alla massa, alla carcassa del coso, saldato bene, poi ho fatto le saldature, compresa quella del polo caldo, e poi l'ho richiuso. Non è a viti, praticamente quella femmina che rimane attaccata al case della radio, del baracchino, no? Per capirci, io ce li ho tutti con le viti, non sono saldati. No, praticamente c'è il foro rotondo dietro dove passa la femmina, tutta filettata. Evidentemente in origine c'era un controdado grande, no? Di quelli sottili, quei dadi sottili, ma qua non c'era. Sicuramente in origine c'era per bloccarlo nel lamierino, per tenerlo, però ho guardato dietro, non c'era nulla, ho detto ripristinato, l'ho bloccato là dentro, quindi adesso è fermo, è saldato bene sia la massa che il polo caldo, quindi vabbè. Già lo riapriamo intanto, dai. Ma infatti, lo riapri, lo ricontrolli bene, lo fai. Poi, questi dell'Aran 48 già, se un 48 già se ne trovano, questi del cambio. Qualcosa abbiamo anche di quello. Vediamo cosa fare. Adesso tu controlla e vedi se funziona, se riesci a farlo andare. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Tu hai sentito qualcosa già? Impastato in mezzo al QRM, ho sentito qualcuno comunque. No, non vedo proprio fa, ho visto. C'era qualcuno che ha schiacciato, non so se è qualcuno là fuori. Non lo saccio. Chi è sul fondo? Chi è che chiama? Giuseppe, tu sei? C'è miseria la verba. Ti sento basso basso, Giuseppe, basso basso. Non ho capito, cosa hai detto? Giuseppe, non c'è più la forza di parlare. Oh, Madonna Santa, e cosa vuoi che ti faccia, cosa vuoi che ti dica? Io l'unica cosa che ti ho sempre detto è che non sei un ragazzino, quindi, le cose cambiano, ma io ti sento basso rispetto a come ti sentivo prima, ti sento basso, l'unico che ti sente meglio di me è Marco, non capisco il perché. Ti ho capito, vabbè, piano piano ti rimetterai a posto, cosa vuoi ti dica, se riuscissi a ascoltarti meglio forse capirei un po' di più. Gianni, tu non lo senti Giuseppe? No, vabbè, arriva basso anche a me. No, è impastato insieme al QRM, sento solo un borbottio, è incomprensibile per me. Lo so, anche per me faccio fatica a capire. capire ciò che dice, perché è basso il segnale e poi ha problemi nel parlare, quindi non riesco a capire ciò che dice. Giulio, Dollaro, ci sei, Dollaro, Ronaldo, CR7, Bonucci, Chiellini, ci sei? Io ne volevo niente, devo fare l'appello della formazione, non c'è Ronaldo, non c'è Bonucci, non c'è Chiellini, non c'è Marco Dybala, siamo giuro io e tu. Già entrerà magari sicuramente, che adesso non ho il telefono a portata di mano, Allora, questo qua è un po' mezzo juventino, vabbè, e ma che non sia, no, ma il Portogallo gioca domani mi sembra, perché hanno iniziato le partite per gli europei. L'Italia non so se gioca oggi, se gioca domani, se gioca non seguo niente io di questi gossi. Figurati io. Vabbè, apro di nuovo la parentesi. Nelle caratteristiche tecniche di quella piccola radio Midland che ti stavo dicendo, praticamente c'è i watt in AM sono un watt, un watt in AM e 4 in FM. Ma non è una RAN 48 allora? No, forse ti ho mandato anche la fotografia, se non sbaglio. La fotografia di quel baracchino, di questo baracchino Midland. Rubrofetta. Questo è quello che ho mandato io, questo che ho mandato io. Questo. Ma li ho portati le gente? Eccolo qua. Sì, me l'hai mandato, fisci, non è che avevo 80 anni. È un Midland 77-114, è piccolino proprio, è sottilissimo. No, ma questo è la JAI. Questo è mandato a me la JAI. Allora non me l'hai mandato già a me, forse è mandato a Giulio. O questo. Questo è il portatile, questo è della CTE. Me ne hai mandato a me no. E adesso te lo mando, così te lo faccio vedere. Avanti il break. Eia, mandamelo. No, perché io c'ho il portatile e la JAI. L'altro no, non me l'hai mandato. Chi è il break, avanti? Ciao, sono Diabolic. Chi è? Diabolic. Io non capisco niente. Insomma, lo guardate, Diabolic. Cazzo, basta, una cosa allucinante, sì. Allucinante, sì. Ma male, tutto impastato, sì. E senza baracchini, signor Puff. Ma pazzito, Vito, tu man mano che non funziona, no, finisci male. Sotto il coperchio, non si vede, mettili una X e lo rimetti a posto e te ne prendi un altro. Quelli con la X sono non funzionanti o mal funzionanti, fino a quando non trovi quello che esci bene. Questo è 750 in America. Vabbè, già 50 in America, se ti faccio sentire 756 esce come quello, per carità. No, dove sei? Di là nel covo? No, sono nella casetta, Potenza per... ma questo non è male, aspetta un secondo, scusa. È anche accordato, fanno 100 watt. Sì. Il microfono, lì ci vuole un microfono, come un attrattore di buon lontano più 3 in chili, o un microfono con i baracchini, non te ne accorgi? Questo sono io. Sì, l'ho visto, sono venuto l'altro giorno a portare un microfonattino. Non c'è di più però. Ci hanno fatto due chiacchiere lì proprio. E quello è quello che ti ho messo i tassini io, quello verde e quello rosso che ti mancavano, quello lì stai usando. No, quello della casetta, no. No, aspetta. Ma dimmi tu. Questo è male, in FM è sicuramente un 3. Sicuramente sì, in FM. Tu me ne hai dato uno a me. L'ho usato io. L'ho usato io, quello lì. E ti mancavano due tastini. Infatti se tu guardi sono sempre ICO, però sono di un veicolare, c'hanno uno una freccetta verde, uno una freccetta rossa. Capito? I pulsanti che ci sono sopra, NB, quella che state dimmi. Scherzando quello lì, sì, il segnale c'è, se 9:15, però la radio è brutta. Gianni Rubroffetta, lo senti a Walter Diabolik? Sì, però è incomprensibile. Cioè non si comprende nulla. Comunque un salutone. Mi sento male io. Aspetta, il segnale com'è? Così, questo passaggio, in questo, cambia qualcosa? Sì, da 9:15 vai. Sto usando quello 751 America USA 88 verde, ma tu non dici perché, era così. No, non era così. Quelli che ti ho messo io, uno con la stessetta verde e uno con la stessa rossa, per distinguerli perché una cosa e non è l'altra, sono dei Unicom che avevo io, VHF, UHF, bruciato, non funziona, però i tattini sono uguali, sono in cazzo lo stesso. Lì non ce n'era tattini. Quando me l'hai dato tattini non ce n'era, capito? E fate guarda, una bella pulita, ma la sistemata l'avevo messo quei tassini lì, perché non ce n'erano, erano assenti. Ma c'è una risultato di stare bene, ma una cagata. Sento vatti da 120. Ma sì, niente, però. Soprattutto anche l'amico che mi sento ma non lo sento. Se lo sento ma è mezzo a correre qua. Ehi, Gianni del Brofetta, da lì dal corso, uscendo con un'antemina piccola. E lì bisogna fare esperimento, vedere se magari con l'SM20. Secondo me esce bene con l'MC60 quello. Davvero, un MC60, cambiare la connessione con un altro cavetto e provarlo. Vedrai che esce bene, perché il mio, il 756 col 60 esce bene, con l'SM20 è una grandissima cagata. E siamo lì, non è che 751, 756, siamo lì, sono le prime serie, quindi vanno benissimo in banda laterale, su quello non ci piove. Però una M, Nikon, no, io l'ho visto dove ce l'hai, ho visto lì nella casetta, l'ho visto, quello è quello che avevi prestato a me, l'ho visto. Vabbè. Avanti Gianni, come non senti a Diabolico? Se non lo senti allora è un problema. No, il segnale già è sopra il QRM, è la radio che è incomprensibile, capito? Non so se lui mi copia. Professa, prevedo che se non metti l'antenna arrivi male qua. Ma sto così col compressore, adesso ho tolto il compressore, meglio? Così è senza compressore, senza. Così ho tolto il compressore. No, senza compressore va meglio, e puoi anche abbassare la potenza, invece l'anni è 120, 180, e tu sei megalomane, l'anni è 50, vedrai che esci meglio. Non so, l'ho abbassato. Guarda, così l'ho abbassato al 40. Ti sembra poco la differenza, il segnale è cambiato di pochissimo e la radio adesso è comprensibile. Anche io se ti metto 4,40 a manetta esco tutto distorto, infatti lo tengo sempre a 20-30 watt, è più che sufficiente, tanto siamo tutti qua, se puoi c'è qualcuno fuori aumenti, adesso lo senti meglio già. Sì, l'ultimo passaggio il segnale è aumentato di un paio di tacche, te l'ho detto qua lo smitter mio non è molto affidabile, comunque l'ultimo passaggio il segnale è aumentato, è appena appena più comprensibile di prima. Io ti sento male, c'è mezzo terreno proprio, tutto per l'inizio, l'ultimo passaggio, però non ti sento quasi. Il segnale a 8, è preso molto QRM qua. Vabbè, mi sposto, vado sotto. Comunque, hai visto un paio di antenne, le ho messe qua. l'ho vista. Ma quella là perché è bassa? Mamma mia, quella quando la sollevi, mi ricordo quel casino che era accesso a Marco, quella è un'antenna molto delicata. È delicata, ma rende meno di quella che ho in alto, stai tranquillo. Ho fatto le gare e tutte le antenne alzate. Quella che è in alto è abbastanza. L'ho visto, ho fatto vedere, ottimo lavoro, bella sistemazione, tutto ordinato, finalmente, la macchina è tutto al suo posto, hai fatto un bel lavoro, complimenti, anzi ha fatto, molto bello, ok, va bene, dai, vado, sono qua io comunque, se sali sopra che vuoi entrare con l'altra, fatti due chiacchiere e siamo qua. Tanto sto aspettando la banda, ancora non c'è vinto nessuno, ok? Adesso entro dall'altra parte. Gappa, gappa, vai, Rubrofetta. Ok, volevo, vabbè, adesso non so se è andato via, volevo sapere da che zona stava modulando, così giusto per avere un riferimento geografico. Lo dico io, dai punti, anzi, da San Giovanni, diciamo, dai. Ok, capo a capo, adesso ho capito. Hai capito, sì. Vabbè, e si è abbassato tu, PMR, sempre a bordo, geolitica, io c'ho tutto acceso. Se senti rumore di fondo, di vento, è mia moglie e mia figlia che ogni giovedì qua ci sono i parrucchieri, capito? Il salone. Salone di parruccheria. No, vabbè, mi hai detto che c'avevi anche qualche apparato acceso, infatti sentivo qualche voce in sottofondo. Sì, sì, ho le bue, le uche. Posso lasciarle anche accese, intanto non si sente nessuno. Qua in PMR c'è sempre qualcuno, e allora se... Poi io ho messo un po' in ordine oggi. Sto cambiando ho pulito la volgibile all'interno, all'esterno, quindi ho tolto il cassone e tutto. Ogni tanto me lo devo pulire io, perché questi lavori mia moglie non li fa, prima si dronchi al godo. Mi ha approfittato a pulirmi davanti, la tariera, smontato, tutto, sapevo cosa fare. Tanto qua oramai non c'è più niente da fare. È tutto, diciamo, no, non in stato abbandono, ma ci manca la metà di tutto quello che ho. Ho messo già tutto a posto per fare un po' di ordine. Questa non scende Giulio, attento Ronaldo, la caridaia. Mi viene a redire a me. Ho preso il tabacco perché stavo fumando un po' troppo. Ho preso il tabacco, le cartine, i filtrini. Tante volte le sigarette, ma come nei cannoni? Siamo sulla stessa barca allora. Mi sono arrangiato anche io da un po' di tempo a fumare trinciato. Niente, piano, non escono perfette, ogni tanto esce qualche sigaretta, insomma, decente, il resto non vogliono viste proprio, sono tutti barridosi. Ma stavo dicendo, quello del tabacchino c'è la macchinetta, ma è efficace questa macchinetta, giusto per darle un senso, ma davvero brutte, fanno schifo, io già non ci sono buono a farle, me le fa mia figlia, io ho provato e non riesco manco a liarla, figurati. Io una volta l'ho provata una macchinetta, ci ho perso la testa e me l'ho fatta a mano. È più difficile la macchinetta? Beh, ci sono diversi tipi di macchinetta, di macchinetta per fare le sigarette col trinciato. Adesso non mi viene male descriverti quella che ho usato praticamente. C'è una sorta di nastro largo quanto la sigaretta, con due rulli da una parte e dall'altra, questo nastro passa, praticamente metti la cartina, prima la cartina, poi il tabacco, giri uno di questi due rulli e in teoria la sigaretta si dovrebbe arrotolare, ma lascia perdere, cioè perlomeno. Ho preso e me l'ho fatta a mano. Ah, uscì, quello lì stavo comprando, hai fatto bene a dirmelo allora. Io me ne faccio fare a mia figlia se abbia delle luci. Aspetta un secondo solo, che mi sta chiamando mia moglie già. Ehi, Break. Avanti. Diabolic, mi senti adesso? Adesso sì. La radio è pulita, adesso riesco a capirti. Va bene, adesso è perfetta. Adesso ti sento anch'io. Strano, è più basso ma è perfetto. Vabbè. Questo va bene, cos'è questo Walter? Questo è il frutto. Poi c'ho Topolino e tutti i settenati. Frutto, quello me l'ha dato quello che aggiusta gli smitti. Sì, ce l'ho anch'io uguale a quello. Io c'ho il telefono 2, Colte, anche quello è Colte, stesso BIP. Però a me me l'ha dato Massimiliano. Ok, sì. Questo va bene. Questo è una signora radio. Sì, esce bene. Non so in FM, perché sono comprati da Gigino Vulcano, ma sono tutti scorruggiati con tutte queste modifiche da camionari. Non ne ha quella FM sicuramente, lì c'è la modifica o dei canali o qualche cosa, perché loro usano tutti i tastini, invece il mio tastini non ne ha assolutamente. È fatto veramente sicuramente è regola d'arte, non è stato eliminato niente. Lì sicuramente FM non ne hai. Boh, non lo so, poi proviamo. Com'è il segnale? Buono? Sì, sì, 9-10, un po' più basso dell'altro, però va bene lo stesso. Lascia vedere. Allora, è così? 9-10. No, ma c'è dei picchi di modulazione allucinanti, quindi il segnale sale. Quelle radio sono così. Però quello c'è la regolazione dei watti. Se tu c'è qualche pulsantino lì, qualche potenziometro che regola i watti, tu lo giri e vedrai che ci meglio. Perché di Vulcano era questo, i watti li ho regolati, mi ha dato anche il Galaxy Saturneco Umbrella con tutti i cosi, bello, mi piaceva perché avevo i LED, l'ho dato, ho dato a Vanni di Alghero, lo userà lui mentre la mantovano fra poco, perché alzavo il refrigerino e mi diceva culo. Beh, quello è modificato, lì tutte le radio sono modificate, quello quando lo usava lui ci va molto bene. Però c'è il sistema di chiusura, io ce l'ho l'87 che è coso di colti lo stesso, e c'è il tattino dove c'è off, ecco. Se io lo tiro su esce con l'ecco, se lo tengo in off è un baracchino normalissimo. Quindi cioè, le modifiche vanno fatte così, noi devi. Se uno non lo vuole usare con l'ecco non lo usa, capito? Adesso non faccio l'ecco? Aspetta un attimo, vedo se capisco qualcosa. No. SVR, ma la sorte. Ora, questa è la potenza. RF Power. Così a manetta, più alto il segnale. Sì, adesso c'è 9,15. Perché questo da 70 watt, gli hanno messo dietro un dissipatore, questo da 70 watt. Così è quello, già lo conosco, sì. Adesso aspetta, ora, minchia game, boh, minchia, guarda. Andiamo così non esce, così è cambiato qualcosa, oh, non cambia niente, guarda, non lo so, ora, questi sono i watti, questi sono senza watt, ora, prova, abbassiamo i watti, scusa, profetta, ora, mazza, che te ne varia Gigino Vulcano. No, guarda, non lo so. No, lascialo come era prima, che andavi bene. E com'era, che ce la metta più. Questo è il RF Gain, questo è il Mink Gain, e questi watti, e questo è... Cosa cavolo, se vuoi restare. Così è perfetto. Potenza alta. Esatto, quella è la potenza alta, così lo devi lasciare. Lascia tutto così che stia andando bene. 9,15, con picchi a 9,20, sì. Questo c'ha molti watti, è uno Smith bellissimo. Lo so, poi lui con i watti ci sa fare, sempre li aumenta, a me l'ha 48 da 3 watti, me l'ha portato 8. E gli Smith? Gli Smith ho ottenuto quello che c'era, se no poi non andava bene. No, lo Smith è tutto in colori soffusi da nightclub. Ah, beh, lui è fissato con i colori blu, rossi, celesti, no, il mio è bianco. Cazzo, già c'è bugico, bongo, c'è celeste, non vengo una mazza. Va bene, poi cerco lo Smith, c'è lo Smith, come si chiama qua, cerco il microfono per il... mi sono spostato in frequenza, mi sono spostato, no, va bene così, va bene. Va bene, 1, 2, 3, prova Smith. Profeta, come mi senti? Adesso sì, l'ultima regolazione che hai fatto, il segnale è aumentato, la radio è più che ottima. Guarda, se io sto uscendo con un apparato praticamente giapponese degli anni 70, un veicolare, c'ha 4 watt, è quarzato, è roba degli anni 70, quindi con un antennino di macchina sul tetto, quindi questa è la mia stazione. Vabbè, poi ti fai sentire. Se c'è propagazione arrivi anche in Francia, cosa può capitare anche questo. Che baracchino è? Guarda, è un Asahi, è un veicolare, 40 canali, ce ne sono quartati 27. Squelch, volume, il commutatore, non va altro, è lo Smith. Lo Smith, vabbè, forse ce l'ho. Bene, Meda. Adesso ti faccio sentire l'Airbag, se quello che ho io va. per fare QSO locale con l'MB5. Vabbè, questo è 440, cioè che comunque. Walter, con quante watt stai uscendo adesso? Boh, io sono a San Giovanni e ho questo brutto, sarà 50 watt. Brecco, prova brecco. Registratissimo il brecco. Qua Walter, questo è l'Elbex 4082, mi sembra che ce l'hai anche tu, però con l'MB più 5. I watt sono 6-7. Poi mi dici se ti piace la modulazione. Perché questi microfoni qua, qualità prezzo, costano una fesseria e si adattano a tutti i baracchini che c'è tu. Avanti brecco. Ho cirigato, aspetta. Io l'ho regalato a Vanni l'MB più 5 l'altro giorno. Ne avevo un paio sul tavolo, ho detto pigliatelo, tanto non li uso mai. E se ho un testa di agnello, perché quelli vanno benissimo. Avanti Fabri, ciao, buonasera. Ciao, buonasera anche a te, buonasera a tutti. No, sto facendo una prova perché ho spostato l'antenna, come ti dicevo Walter, ho finito adesso di tararla e vabbè, il traliccio ce l'ho basso perché prima di sollevarlo, tu sai, devo finire il rotore. Però era giusto che l'ho messa da lì per vedere se stava funzionando, stazionaria sembra a posto. Vediamo Walter se si ricorda il segnale, vabbè Claudio non è un problema, è lì dietro, però tu ti ricordi il segnale, se è già migliorato così Walter? È di 3 punti. Ed è a terra, immaginati quando sali di 12 metri, è oscuro. Cos'è, hai messo la mantova 1? No, la stella l'ho messa sul traliccio, solo che adesso è basso, già lo sai, no? Che ce l'ho quasi un mese a terra. Quando lo porterò su, vediamo come va. Va bene, sì. Io da qua sono in basso a San Giovanni, io qua cosa posso fare? Niente. Voi su Alghero, su di sud andate bene. Qui vi ammazzo solamente verso la, come si dice, verso Santa Teresa, Tempio, quelle zone lì. Ovviamente in qualche Toscana, Roma, come ti ho sempre crepato da quelle parti. D'altra parte io sono in basso, è come un lenzuolo corto, ti copri il piede o la testa. Certo, aspetta, devo andare a lavarmi le mani, sono pieno di grasso e poi devo prendere il bambino. Ascolta, Walter, fai il favore, passa a 525 che devo provare quella radio che ho comprato, che ancora non ci ho fatto un passaggio per vedere se almeno esce. Scusate. Vabbè, a me che mi devo spostare da qua, che la stazione CB è a 10 metri. Eia, 9.35 così con l'antenna bassa, se fa bene. Ma quando la sollevi sicuramente arrivi come prima, sarà 9.40, 9.50. Va bene, quindi ci dobbiamo nuovamente attrezzare per fare le prove anche 27, vabbè. Io non ho problemi, Walter, sono sempre qua. Sono sempre qua, non ho mai toccato niente, almeno la 27 non c'è nessun problema. Ok. Gianni, Fabrizio ti arriva forte a te, no? Abbastanza, come segnale molto simile al tuo. Ce l'hai non molto distante. E più o meno, sai dimmi la zona, a grandi linee. Ma lui è tra via Napoli, quella zona lì, però è praticamente a te Tivere è come me, ma è un po' più vicino, diciamo. Perché tu sei corso, cosa hai detto? Corso Vicco? Eia, K. Già arriva bene, adesso, quando termina i lavori, sto pulendo sto cazzo di display, del 756, si mette sempre la polvere in mezzo, io con gli occhiali la vengo e mi dato i battiti, la sto spennellando, ecco qua. Sì, va bene, KK. Io. Cosa pulisci quando lo vedi nuda? Buonasera a tutti. No, cazzo, ti ho detto, mi ho messo gli occhiali in mezzo, no, alle fughe lì del 756, vero polvere. Allora gli via il benzillino e ho tolto e stavo soffiando e buffami i bibilizzi. Ma noi che rubiamo negli occhiali, no? Abu! Ammi, un altro messaggio mi ha mandato, aspetta che me lo leggo, riprendi con Gianni. Ciao, buonasera. Ciao Massimiliano, ben sentito. KK, buonasera anche a te, Emi. Sono entrato così a gamba tesa, adesso vi faccio la doccetta al volo. Bene meda. Ascolta, quota massimo, con quanti watt stai uscendo tu attualmente? A me stai che dicendo? K. Io ho un watt di portante. Non ti ho capito, scusami. Un watt di portante bianco. Un watt mi hai detto, giusto? Cos'hai detto? Scusa, stavo mandando un messaggio che c'ho Gabo Bugnetti. No, ho chiesto a Massimiliano con quanta potenza stavo uscendo. Tu non ne ha potenza. Aspetta, c'ho il gas. Claudio, ti ho mandato la foto di quel piccolo apparato. Cosa mi hai mandato già? Su WhatsApp ti ho mandato la foto di quel Midland piccolino di cui ti stavo dicendo prima. È bellino, non è così vecchio, è un vintage, ma già va bene, tutti sono vintage, le mie non sono tutte vintage, anche questo 440 non è vintage, 430 non è vintage, gli anni 90, quindi tutto vintage abbiamo, e sono le radio migliori per usare il 27 per fare attività anche a livello ITC. Vabbè Massimiliano, capito? No, niente, l'ho neanche letto perché, cioè ascoltato perché stavo parlando qua con mia figlia là. Comunque gli stavo dicendo già, c'ho un watt di portante bianca, capito? Ok, io invece c'ho, vediamo, io c'ho 10 watt. E così sono 18 watt di portante bianca. E così si è andato un po' più alto. Di portante bianco ho parlato. E appunto quando parli poi diventa portante nera. Quando parli c'hai i suoi picchi di modulazione. Si conferma, certo che sì. Meglio ti arrivo così, Gianni. Sì, sì, abbastanza, va benissimo. Ma ci arrivo a Santiago di Volo 3, sì. Già li superi. Allora già va bene, mi accontento di poco, io vai. Guarda, qua, ti ripeto, lo Smith non è molto attendibile. Sei Santiago 4, 4 e mezzo, la radio 5. E allora, ce n'è anche prima gli altri. E vabbè, ma non è attendibile, ha detto Baro, vabbè, caro, non lo so. Lui c'ha anche un antenino di macchina da contare, quindi uno dopo che mi ascolta. Ma tu immagini che un antenino di macchina, adesso vabbè, farà un'antenna, metterà un'antenna come i cristiani, eccetera. Però con l'antenna della macchina mi arriva 9 più 10. Evidentemente la sua zona vede la mia, o dove la sua antenna, ci vediamo, non lo so. Comunque arriva molto bene. Ok, ti stavo dicendo nel messaggio, ti ho detto che quella roba là è tutta pronta, tranne il linearetto tuo che è agganciato all'Elbex, perché l'avevo rimesso per vedere la differenza che c'era tra quello e l'altro, no, quello piccolo cio. Praticamente quello tuo in terza marcia dà gli stessi watt che dà quello là a manetta. Ma c'è già dei dubbi. Mentre in quarta marcia è praticamente supera già, mi pare sia intorno ai 120-130. In quinta siamo a 160, 170, eccetera. Quasi 200 pieni era. Vabbè, pignarettino, perché è piccolino, molto interessante. Vabbè, quello che c'ho io non ne ha di commutazione, è fisso. Guardi 80 watt, però con un baracchino piccolino ti aiuta. L'avevo staccato, per te ci è proprio quello di Massimiliano. Ha detto potenza, ma te ci va a tirare di Guido. No. Sì, che vergogna. Vabbè, lineare io non ho bisogno. Era giusto così per fare le prove, ma soprattutto per verificare se era tutto funzionante, capito? È perfetto. Sì, ma hai capito se ti ho letto nel messaggio? Una cosa allucinante, cazzo. Aspetta che me lo ascolto, che ancora non l'ho leggito. Ehi, vabbè. Però, in riferimento al tuo, io ti rispondo anche qua, non hai un problema. E io ti voglio già regalo, capito? Basta con i regali. Ehi, mi hanno regalato di gocce e poi me la sono dovuta ricomprare. Scusi, un linearettino lo vuoi? Mi do i citti, ma non è che lo posso regalare. Caro Gianni, così è. Soldi non ce n'è, la gente vuole tutto a regalo. Io c'ho un mare di roba dentro una cassetta che sto tutta smistando e dando. Tutto a regalo da voi. Lasciala stare lì dentro, lascia. Già ho ascoltato il messaggio, già va bene, tutti dire, lascialo dove è adesso quello che già sta bene lì. Così lo usi, non mi serve a me. Già c'ho quell'altro io. Va bene, capo, non c'è problema. Lo sai che essendo qua è come che lì. Vabbè, non ti preoccupare. era giusto, ma ero proprio, ho detto, voglio vedere che differenza c'è, a chi pare in uguale, oh. Vabbè, quello era un pochino più cicciottello, più corto, quindi è lungo, ma ci viene tutto. E poi c'è a vedere, come ho attaccato prima uno, il mio 80, vabbè, adesso lo sta. Quello l'ho messo in quinta, in sesta, adesso ho iniziato a scendere, con la T230, al limite in terza marcia ne dà anche di più di 80, 85 e quasi 90, figurati. Lo mio che non ha nulla, 80 watt secchi, con gli stessi watti, con gli stessi watti. Ci aiuta, claro, ma per città non c'è bisogno di lineare di nulla, capito? Se ti fa una chiacchierata un po' più lontanata per farti ascoltare meglio, già va bene, ti aiuta. Sì, già lo vedo, vabbè, ma io uso sempre il Kenwood, quindi ce l'ho a 20 watt, sì, 20 watt che lo uso sempre in sulle stazionali, insomma, andando in antenna mi debba la radio. 20 watt, ho 20, 35, 40 modulati, posso anche abbassarlo, ma lo lascio sempre così, a voglia per farci sentire. Sì. Siamo quattro iatti, già va bene. Avanti, Giannedu. Eia, Clara, tu come segnale, siamo intorno a Santiago 6 qua, da me, sempre con il mio strumento comunque. Va bene. No, ma me ne accorgo, evidentemente abbiamo qualche barco, riesco a tirarti fuori molto bene, perché arrivi con quell'antenna e la macchina 9-10 qua. 9 più 10, tenendo conto che la mia antenna prima era dall'altra parte del palazzo, adesso l'ho messa definitivamente all'angolo dove è nata da quando io sono arrivato qua, e funziona molto meglio, è un pochino più aperta per il centro storico, capito? un po' più aperta, e quella deve rimanere lì. Le altre adesso, vabbè, appena si libera Andrea le toglieremo, anzi preparatevi Massimiliano, Mazinga Bulldozer, preparati. Andrea, ma sta terminando, già ti avviso io, speriamo che non sia in concomitanza con l'arrivo della cameretta, dei lavori che devi finire, ma anche qua ci vuole un'oretta di lavoro se è troppo, perché a me interessa abbassarla, poi già abbassare tutto il sistema e togliermi il master, e poi già mi arrangio io, ma vuol dire tutta terra già rivolta a pezzi, rivolta, me lo vende alluminio. Sì, non ti dati nulla, ma già ci organizziamo un sabato, una domenica, tanto la cameretta non è l'abbiazzero, quindi non è un problema, claro, io adesso il sabato col muratore mi finisce quest'angolino, poi io diciamo che ho terminato là. Poi piano piano mi sistemo e cosa, però se ti serve una mano di allusare, problemi non ne ho. E vabbè, già c'è anche il serpente comunque mio, Cla, che dà più watt di quel lineare. Ah, lui. Guarda, quello è custodito dentro la cassaforte. Quello non si tocca, quello è custodito dentro la cassaforte, quello è l'ultima cosa proprio. Appena sei organizzato, quello si scende, tic e si mette, perché quello è perfetto, è tutto imbrigato, buono per gli affreddo, messo bene al suo posto dentro l'armadio, no, per la gassetta dei sigaffi, e quello è un SSB, una radio, ho Gianni, che in SSB si chiama il Cobra, c'è un lineare sotto la pancia, un B300 sotto la pancia c'è, praticamente, di serie, un dissipatore da paura, se non ti pesa, è più grande del Magnum. E allora, in SSB arriva intorno ai 180 watt, in SSB, in FM da 140 watt, in AM quando stai modulando arriva a 150-160, più di un linearetto di macchina. Me l'avevi parlato non molto tempo fa di quel Cobra. Quello forse non ce l'ha Walter. Ecco, quello quando è uscito costava intorno, no, 600-700 Massimiliano. E la cosa del genere? Una bestia. Sa Canaria, Uffa, di tutto va. Ma molto bello, il veicolare più bello che abbia mai visto, tutto rosso, bellissimo. Ma c'è una potenza micidiale. Molto bello. Il Cobra GTLX DX. Micidiale. C'è proprio un lineare sotto la pancia. Infatti non lo puoi usare senza la staffa perché... rimane tutto ridotto, tutto sollevato. Ho divisore con la staffa appoggiato come un base. No. Dice, non devi bigliare più a Roma Similia, perché se prende polvere poi mi incazzo. No, le biglia più a Luigi, non ti preoccupare. Allora, andai finito, ti mi fai vedere l'armadietto e te lo scendo. Ehi, ehi. Ma sempre accampato da Catriasi? E allora? Accampato da Catriasi. Sì, Massimiliano Bulldozer. Io. Sì, ma detto che Andrea o Massimiliano, non c'è problema. A me interessa sganciare, perché se sgancio io da solo con uno che non c'ha forza, ce ne tagliamo le mani. Invece bisogna mantenere, abbassare giù, una volta che la trasmissione arriva al muretto, si sgancia il mast e se ne scendono le altre antenne. Io da terra poi già mi diverto a smontarle piano piano, mettendo le scatole, tolgo tutto da lì, anche la monobanda, l'altra, lascio solo il bipolo dei 15-20-40 e la manco va per il momento. Poi quando sarà definitivamente tutto a posto, allora devo cubularsi. Vabbè, io comunque continuo a pressare quella cosa, Massimiliano, è che fino a quando no, poi non ti decidi tu a prendere una decisione totale, io quello che abbiamo detto continuo a farlo. Però mi si girano le balle quando stanno lì, pipì, ma ecco, pare già dire, io non regalo nulla, anche se non è roba mia, io non regalo niente, sono io che sto vendendo, allora mi dai quanto voglio, se no te la bigli in culo. Hai perfettamente ragione, ecco, è così, perché uno quando va a vendere, no, cerca sempre di rifarsi quanto ha pagato la cosa, capito? Però purtroppo quando vai a vendere a volte devi anche svendere, e quando stai svendendo nessuno è volo, ma te sì, capito? Però vabbè, va bene così, non... Io grazie a Dio tutto quello che ho è tutto pagato, nessuno mi deve nulla, quindi anzi forse anche uno mi deve qualche cosa, però io quello che ho l'ho tutto comprato con i soldi, con sudore, quindi problemi non ce ne. Là, perdonami, ma io vabbè, lascio tutta la roba sullo sgabello qua e vado a farmi una doccetta, là. Ti mando una foto perché siamo un zingaro. Ehi, non ci vediamo. A parole macchia lei ci soldi di seguito, no? Io è una vita che compro, vendo e scambio, come te, no? E devi vendere è una cosa, quando però devono vendere gli altri, no, allora c'è sempre quello che sta lì a tentennare, a dire, a fare. Adesso il compagno si chiama Sabasi, a me non me ne ha fatti nulla, non è che uno può regalarla la cosa, quindi tutto lì, vabbè, chiuso il discorso. I piedi sono quelli, chi le vuole le radio mi porta i soldi e le radio escono da casa. Diversamente la scatola qua non dà nessun fastidio, sono tutti lì belli, lucidi, trovati, e continuano a rimanere lì. Avanti Gianni. Eia, vediamo se c'è Giulio o Marco. Giulio, ci sei? Avanti. Marco. Oh, stasera proprio banditi tutti e due. Vabbè, io vado a farmi la doccia. Ho visto che ti è arrivato il messaggio, ma a me non mi dice niente ancora il baffè Milo. Ciao, a dopo. Sei più bello della radio che la scrivania. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, dai, ci aggiorniamo, stammi bene. A più tardi, se coincide, cazzo, vabbè, sono già le 7:30. Ancora un quarto d'ora e poi già vado a sistemare il cane, dai, vedo dove c'è bene. Mi portaccio definitivamente in campagna, perché non ce la faccio più ogni sera a cazzo a rompermi le balle. Immagino l'impegno. Il cane che hai messo nella foto del profilo di WhatsApp. E allora, dice a Luigi quando non vedi nessuno. mattina molto presto, quando non c'è molta gente in giro, perché qualsiasi cosa che vede ce la mangia. Molto bello, complimenti. È un terrorista, va. Hai visto quanto la testa che c'ha? È un terrorista, Sugar, una goccia allucinante. Se ti vede avvicinarti alla macchina mia, ti rimani a ribiri. È un bel cane. Si vede, è un bel cane. Che razza è qua? È un bulldog inglese gigante. Ah, ho capito. Bello, bel cane, complimenti. E a casa è un gatto, mangia, dorme, c'è la sua brandina, sta tutto il giorno, ma come che non ci sia? Quando esce fuori, si scatena. Vabbè, me lo posso immaginare, se te la di in casa da voi, giustamente, giustamente fa per quello che è nato, cioè fa il cane. Io ho capito, ma non è che deve essere così, Gianni, il cane se è buono a casa e se è buono anche fuori. Questo ho dovuto comprare la musarola, quella a strappo, perché chiunque si avvicina, abbaia, siccome è un cane molto grande, lo temono, capito? Invece a differenza è quello che mi fa piacere con i bambini, è più mansueto, ma con le persone che non conosce non è molto affidabile. Immagino, poi i cani di una certa stazza, insomma, già visivamente incutono un certo timore, quindi lui ne è consapevole, e questo lo sa, sono animali molto intelligenti, quindi anche il cane lo sa questo. Tu se ne accorgi, poi questo è territorio suo, capito? Ma già sta facendo territorio quando lo porto in campagna, che anche lo porto spesso, quindi se in campagna lui la stessa cosa, basta che sia un po' e fa territorio. È un cane molto molto particolare. Vabbè, per il momento non è mai successo niente, però io tengo sempre a guinzaglio. Ho dovuto comprare, quando era piccolo c'avevo la fascia, quella guinzaglio, insomma, la piccola, adesso ce l'ho a catena perché ne ho già spezzato due. Fortunatamente ero dentro un cortile qua comunale che c'è, dove vanno anche gli altri, è tutto recintato, non c'è niente. Se trova che si rompe il guinzaglio per strada e trova qualcuno, le parte, allora meglio la sicurezza a catena. Prevenire è meglio che curare, meglio così, bisogna prestarci un po' più di attenzione rispetto ad altri cani, dai. Sì, ma infatti già, io non voglio avere problemi, anche perché ho iscritto l'anagrafe canina, microchip, un cane che potrebbe dormire nel letto, però se succede qualcosa passi guai. Allora, sì, avanti la Iana, Pippo, sì, alla porta, ma perché c'è ora di uscire? 7.35 quasi, Pippo, manco gira, oh. Ormai conosce i suoi orari, cioè i suoi tempi, quindi è assolutamente abituato, figurati. Abituato, ha portato anche a lui la vicina. Sto piangendo. Vabbè, adesso mi vesto, lo porto. Mamma mia, io aspetto il fine settimana, guarda, per stare un più sereno anche col cane. Non so manco il tempo che dà, domani, domenica, sabato, non so. Non lo so, dovrebbe essere più o meno come oggi, insomma, un po' di cielo coperto, niente di che, dovrebbe essere abbastanza stabile a quanto ho capito il fine settimana. Non ho visto niente, non so, già, vabbè. Ma ci va, se partite, non farci sentire Giulio oggi. So che il Portogallo, mi pare, giochi domani. Il Portogallo gioca domani, c'è mezza Juventus, nazionale, lo stesso. Vabbè, oggi non lo so chi sta giocando. Chi inizia praticamente, perché ci sono le qualificazioni per i mondiali. Capito. Ieri Giulio mi ha mandato la foto del suo 4.40. È il mio, è il gemello di quello lì, uguale. Questo giornale ci vuole quello che c'è nella foto. Ehi, ehi, ma sì, mi ha mandato la fotografia e poi mi ha mandato altre immagini riguardo l'antenna fatta in casa. Ah, così, io devo entrare, c'è qualche segnalino basso, non ho capito chi è, va bene, va bene. Quindi Walter, Fabrizio, non ci sono più, ci siete? No, forse sono in V, ma io c'ho tutto spento. No, no, adesso è già, adesso muovo. Vado a portare il cane, vai, al limite, se ci siete faccio chiamata dopo. Mai 5 minuti, un quarto d'ora, tanto scendo qua. Sono in tuta, mi scendo in tuta, adesso metto le scarpe a tennis. Guarda il giardino di casa, non lo porto manco fuori. Non giocare, ciao. Perché tira come un dannato. Ma tira come un dannato. Immagino, dai. Fate buona passeggiata, dai, casomai ci sentiamo dopo, ok? Io già. Ho legato la 600 l'altra volta. Legato. Al gancio sotto, non al paraurti, perché ti non staccano, quel gancio che c'è che hanno fatto sotto per trainare. Col guinzaglio. Aggiù ragazzi anch'io, aggiù mollato, ma stavo parlando con un signore, adesso lo aggancio qua col maglione, l'ho agganciato lì, l'ho fatto apposta, ne ho tolto la marcia e il freno, l'ho spostata di un paio di metri. a farti i muscoli, eh. Non già lì, dai, c'è l'attaccata Maiana, Sì, che mia moglie l'anno scorso ha fatto lì, glielo possiamo portare però al cane, al mare, a Pippo. La attacchiamo all'ombrellone, sì, così si butta l'ombrellone alla ginara. Tutta la spiaggia si zia. Manca un blocchetto che può mantenere Edo. Lascia fare. Va bene già, dai, se coincide ci sentiamo dopo, ok? Cioè, ho visto che quando rientro a portare il cane ci siete sempre. Se ci siete ci facciamo altre due chiacchiere fino all'ora di cena, se no ti auguro buona cena, buon tutti a domani, salutando naturalmente se c'è ancora Walter e Fabrizio in ascolto, a frappè, dai, ciao. Ok, K, dai, casomai ci si becca dopo, ok? K. Anch'io, ma no, vabbè dai, diciamo una mezz'oretta fa. Ehi, K. Sono stanco, stanco. Quella è la cosa di pensionato. E anche loro si stancano, Sta andando questo, sì? Caralegio. Va bene. No, devo fare lì, sono andato ad Fusaro oggi. Devo fare degli accoppiamenti del Mike che abbiamo detto di fare. E li voglio provare qua, però adesso non ho voglia né di saltare né di fare niente. Ecco, sto facendo qualche modifica. Ma voglio provare con una prolunga l'MC con il Lincoln, giusto per vedere cosa c'è più. L'MC? Ma la cosa, quella della Cable, l'MC 70? Sì. Se riesci, non voglio anche un aspettone. Uscire già ci vuole poco. Bisogna provarlo. La prima volta che andava bene, però c'è chi dice che può innescare, c'è chi dice che avrà di frusci, però ho una mia idea. Vediamo bene come si esce, dai. Poi ti do tutta l'occorrente e si fa, e si cuppia, se esce bene. Probabilmente se esce male non riusciamo a farlo, pazienza. Beh, certo. No, non c'è problema per quello, lo faccio. Però devo provare il cavo che sto cercando io, perché sono andato non ne aveva nessuno. Sicuramente dovrò ordinare su internet, perché è quello a 6 più calda, oppure può andare bene anche 5 più calda, però schermato. Capa, io ce l'ho proprio dell'MC 60, ce l'ho, proprio il suo originale, se posso, siccome ho fatto da quello che avevo in più, ho fatto lo scattore, ho fatto, però è sempre intero al 100%. E si possono cambiare solo i connettori. Sì, va bene, tienilo perché lui è importante, bisogna avere, vabbè, il connettore. Io sono andato, ne avevo solo due, se ne avrei preso qualche due in più. E siccome devo fare due attacchi, ma vediamo, va. Se lo ordinano, se no tocca prenderlo su internet. Capo, beh. Io ne avevo comprato un altro su internet di Cavetto, ne avevo comprato proprio per fare quel lavoro lì. L'avevo dato un amico e poi questo amico non ci è riuscito a farlo. E allora me l'ha restituito e ce l'ho sempre io, ce l'ho. È il nuovo uomo. E niente. E ce l'ho sempre, infatti poi per utilizzarlo ho fatto uno spezzone, però è sempre intero, l'ho lasciato, non l'ho mai tagliato. Sì, sì, lo devo fare con un amico, però devo aspettare, purtroppo devo aspettare il capo, perché qua a Sassari non c'è nessuno che lo vende, porca miseria. Adesso devo fare l'ultima prova, se ce la faccio domani sera o dopodomani sera, da Torino alla GBC e vediamo se ne ha. Certo, ma come difficile sarà. Al limite puoi trovare sempre di qui che abbia tutti quei cavetti, lo puoi trovare liscio, senza essere spirellato. No, senza essere schermato, no. Non va bene. Dici di no? Vabbè. Vabbè, questi qua li spigliellati sono fermati, quello già hai ragione. Ah sì, quelli con la spia, sì, l'ho trovato uno, ma era 6 metri lungo. E te cosa ne faccio? Faccio un carretto da massimo 20, 25, diciamo anche 30 cm si può ancora fare, dopodiché via a rifettare. Solitamente io li prendo lì. 6 metri, cosa me ne facevo? Lo tagliavo e poi dovevo diventare pazzo nella spirale per collegare il coso, no, lascia stare, ho detto, lascia perdere. Beh, si poteva tagliare, perché non si può tagliare e fare lo spezzone? Sì, si può tagliare, fare lo spezzone, però diventi scemo a collegare perché quando è un pezzo, diciamo, liscio, lunghetto, riesce a farli bene nell'accordo, ma metterlo nella spirale, anche se devi stare lì a tirarla, a fare, ti scappa, diventi matto. E detto, vabbè, tiro da una parte e poi se non riesco a trovare altro, ti faccio una telefonata e me lo vai. Sono mai venuto prima. Capo. Sì, quello vuole tenuto tirato, magari ci vuole delle pinze a tenerlo a largo, però è sempre un lavoretto, un lavoraccio, dai. Allora, vediamo, se riesco a provare, adesso guardo anche su internet, se riesco a vedere questo... se riesco a trovare questo carretto. Certo. Sto guardando, eppure ce l'avevo qua io. No, non ce l'ho qua. Vabbè, ho detto che l'aveva cascato per adesso. Perché ho ritirato tutto, ne ho messo un po' di roba dentro la scatola, sicuramente dentro qualche scatola. Sicuramente sì. Ma adesso vediamo, se domani me ne portano un pezzo perché un elettricista che fa anche queste cose qua, dopo devo vedere, sicuramente ce l'ho, però devo guardare il magazzino, bla bla, lo trovo, certo, ma se me lo porti lo faccio subito, se no vuol dire che aspettare. Poi se no basta ordinare un cavetto di MC60, quindi un MC60 ti arriva preciso. Sì, quello sì. Tanto costano poco, me lo costano molto. Cavetto? Vedi, ho già il compratore, il venditore. Cavetto, cavetto. Allora, chi l'ha preso il cavetto? Ah, Massimiliano l'aveva comprato. Non mi giro, mi sembra ti, compresa la spedizione. Ma siccome devo guardare a Torino prima, a me non ne serve tantissimo, perché sono anche da Fusaro, ho trovato, e costava 14, quindi non ho, i prezzi sono quelli, mica, ho preso un po' di connettori, un po' di tutto per fare quasi tutte le radio. Se trovo il carretto, vediamo, non questa settimana perché sono incasinato, ma la prossima mi metto all'opera. Ma già pronto ce l'ha Fugiaro, con i due cosi in testata, no, quello arriva già pronto, arriva già pronto, te lo preparano loro, non hai di bucca nuda, dici come lo vuoi, allora te lo fanno, capito? Ciao Fra. Ciao Fra, sì, perché io ne ho ordinato uno per il MC60 e S80, perché uno, poi ne ho ordinato un altro che mi fa dai MC60 a Icom, mi fa, e me l'hanno dato già preparati. A parlare prima tu, no, tu. Vabbè, ormai ho già preso i connettori per fare il capo con Lincoln. Vabbè, i connettori mi servono sempre, non è che non servono, puoi fare anche altra roba e serve. Avanti qua. Sì, ma l'avevo preso anche io. Stesso cavetto che c'è nell'MC60, io ne avevo un MC60 in più. E mi sono fatto mandare, per non toccare il cavetto su, mi sono fatto mandare lo stesso cavetto preciso identico, col connettore sempre a 8 da una parte e dall'altra, però attacco ICOM, capito? Attacco ICOM e lo uso sul base VEU, l'MC60, va benissimo. Quindi quei cavetti lì ce li hanno loro, costano una cazzata. Così non stai a metterti a saldare a fare, tu lo dici come lo vuoi, loro te lo mandano già testato, capito? L'ho anche trovato, ma sabbia, vabbè, adesso vedo se lo faccio, se no, infatti sono, non riesco a trovare il capo, non c'è nessuno che ce l'ha, sono andato via d'accordo Antonello, il 4 novembre, e aveva tutto tranne che il capo, adesso vedo un po' se ce l'ha lì alla GPC, allora, capo datatore, microfono, IES, no, autopine, ICO, adesso vedo se riesco a trovare. Ci sono, tiro, ICOM Kenwood, Kenwood Iaesu, Iaesu Kenwood, ci sono, costano una cazzata, già pronti, non sai, ammattanatelo tra i bed, punta, perché se tu fai la spesa, 3 euro devi comprare il cavo, quanto costa, non lo so, 2 connettori, altri 3 euro l'uno, e so altri 6 euro, 6 e 3 fanno 9, ci devi mettere tutta il tuo impegno, alla fine con 12-0 te arrivi a pronto. Sì, anche quello è vero, ha ragione. Aspetta, sto cercando se c'è, dico quanto costa. Comunque sono intorno ai 13 euro, 20 euro massimo, 13, 14, sì. Devo trovare se c'è ICOM. Vai tranquillo, cercalo che c'è, cercalo che c'è, l'avevo comprato io. Uno è Kenwood Iaesu e l'altro Kenwood ICOM. Ne avevo comprato due addirittura, due ne avevo comprati, e non ce li ho più, non ho capito dove sono, magari li ho dati, non so, vabbè. Capo, però quello che sta facendo lui, che vuole lui, non lo trova, capito? Non glielo fanno quello lì, pronto, perché pronto non lo trova. Sì, anche io l'ho preso, che vuole Ico, della Ico, me l'hanno dato già pronto, capito? Però quello che sta cercando lui di fare, non lo trova, ha fatto già, si è preparato dalla Kevund MC60 al presidente Lico. Quello non lo so, quello non lo so, a me l'aveva fatto Massimiliano Archimede, quello lì, l'ha volato la volana, ma di Giampaolo Silvestro. Poi Giampaolo ci ha venduto il presi e l'Inco, ma non dico a chi, e gli ha dato anche il cavetto. E un cavetto l'ha perso, a chi poi ha dato l'ugoglio, l'ubrigente. Si ha detto un cavetto l'ha perso. Io sono ordinatissimo, le cose ce le ho. Io ho l'SM20 che è della ICO, ma come l'adattatore da poter usare nel K, nel Kenwood. Quindi ho, quello ce l'ho perché ce l'ho. Ho provato anche l'altro giorno, quindi ho l'SM20 che dell'ICO lo posso proprio usare sul Kenwood, capito? Mentre quello del Kenwood con l'ICO non lo posso più usare perché ho direttamente, cioè non c'ho l'adattatore, ho direttamente il cavetto suo originale che mi hanno mandato loro. Già lo so a chi l'ha dato, lo so anche io, vabbè. infatti lo stava cercando per darcelo, per copiarlo, ma invece non l'ha trovato più da nessuna parte. Pazienza. Chiedici il denaro, va tanta di questa roba che non sa manco dove ce va, ed è molto disordinato, capito? Per quello è un cavetto molto interessante per il... Io l'ho provato, credetemi, questa modulazione che sentite era uguale a quella del presidente Lincoln, con l'MC60, che spinge tantissimo, bellissima modulazione, veramente molto bella, molto bella. Io quel cavetto infatti gli ho dato perché sapevo che lui c'aveva anche l'MC60, e gli ho detto, metti le batterie all'MC60, perché gli 8 volt il presidente Lincoln non ce li ha, quindi metti, lo usi con le batterie, e questo è l'adattatore. Usciva che era una schioppettata. Messo un gavetto. Oh, che dipende un gabbo. Ma perso, ti sei, magari messo da qualche parte, non lo trova. Perché dici Sibonia a pulire, a fare, vedrai che lo troverà. Vabbè, io ho una cassettiera qua in stanza dove ci sono tutti i cavi, tutti, capito, spezzoni da 30, 60, 90, 120, e tutti i barilotti dentro le scatole, tutti i PL, tutti i connettori N, barilotti N, che sono difficili anche a trovare, ho comprato tutto in fiera tanti tanti anni fa. C'ho tutto, c'ho una cassettiera, vabbè, tutti i microfoni, la palmo, i cavetti, c'ho tutto, tutto in ordine. Così bisogna fare, perché poi vai a cercare una cosa e non la trovi, capito? Va bene, dai, io vado a cenare, ragazzi, sono salito a portare il cane, ho lasciato tutto acceso e ho sentito a voi. Ciao a te, organizzati, vedi un po', io non ne ho, se no la Rugia della Viola de Volentieri, c'ho quello proprio suo originale che mi ha mandato la CSOM, che avevo comprati da loro, forse li fanno loro, boh. Potresti sentirlo, potresti sentirlo a Marco Cattaneo, Tino, perché io gli avevo detto cosa mi serviva, e può darsi che li facciano loro anche. Sì, ma li mette, faccio telefonare, lo faccio telefonare, gli dico quello che mi serve e me lo faccio preparare, non credo che sia... tanto me, credo 3 giorni ed è qua, credo, se non ci sono intoppi, però è una cosa che voglio fare così, anche io, capito, giusto per vedere com'è, perché poi ne ho preso diversi, che adesso magari riesco a fare anche, magari sto dicendo una stupidaggine, riesco a fare anche l'MC per... ho preso il connettore del SEAT anche, tipo immaginare, oppure faccio il più 5 col SEAT, è una cosa che mi è venuta così, è l'unica, dammi pure visto, dai. No, ma tu fai come stai dicendo, fai telefonare da chi sei tu, dici che c'è un presidente Lincoln che ti serve l'adattatore da presidente Lincoln MC60, lui prende il carretto dell'MC60, quello che c'hanno loro, e ti cambia il connettore e te lo manda, tranquillo che te lo fa. Perché io l'avevo chiesto e me l'ha mandato, però non so se l'ha fatto lui o se li vende, ma penso li facciano loro, il contempo di capito. Va bene ragazzi, dai, un abbraccio, buona cena a tutti, ci sentiamo, ciao Tino, Franco e chiunque ascolta su 10, vai Fra, a domani. Ciao Claudio, buona proverbio di serata, dai, ci ascoltiamo le prossime, abbracci. Va bene, ciao Fra, ciao, se coincide a dopo, tanto anche io mi adesso devo mollare almeno per una mezz'oretta, devo prendere cose dalla macchina, prendere la legna, insomma, sono rientrato mezz'ora fa. E così almeno, mi organizzo anche io, mangio una cosa e poi magari un'altra mezz'oretta, un'oretta, mi sto qua al PC, alla radio, vediamo un po'. Anche io mollo, dai, ci sentiamo dopo se coincide, se non hai mangiato, niente. Ci sentiamo dopo mangiato, non lo so. Ok, ciao Claudio, ciao Franco, ciao che vengono il cultore, dai, a te il mic, Fra. Se qualcuno, se come stava dicendo Claudio, che te li mandano già preparati, se te ne fai mandare i due, poi naturalmente rimborserò, senza problemi, e te li fai mandare, oppure ce li facciamo là. se ci riusciamo. Non c'è problema, non c'è problema, non ho... adesso è una mia cosa che voglio fare, perché poi un amico, non faccio nome, mi ha regalato un microfono, vorrei fare anche quello lì con il Lincoln, visto che mi desidera perché ha download, quindi non faccio i cognomi ma faccio solo i nomi, Claudio. Sì, capo, non si dice mai di fare cose. No, io sono adattato che ce l'ho, ne ho due di MT60. Uno lo sto usando al TMR, infatti ho comprato quello che avevo, comprato per il mondo piccolo, e l'altro lo sto usando qua, in questa radio qua, nel CO80. Però avrei, mi sarebbe piaciuto usarlo anche MC60 nel Presidente Lico, perché mi hanno detto che c'è una meraviglia, veramente meraviglia, non se ne scende dal capo. Ormai ci ha messo la pulce in orecchio qualche uno, lo faremo. Vabbè, dai, già non mancherò, se ne parlo domani, dai, ne parlo domani, vediamo un po' se lo faccio telefonare, se è in buona spiccio, perché è un periodo un po' così. Comunque, già se non è oggi sarà un altro giorno, non ti preoccupare, tanto serve a me, anziché uno ne faccio fare due. E se no, se trovo il capo ci provo io, e se esce bene trovo, non c'è problema. Va bene, fra, io ti devo mollare perché devo fare delle cose urgenti prima che mi si spegne tutto il fuoco, perché se no qua mi linciano. Ok, dai, ci sentiamo allora, dai, e anch'io devo andare a mangiare, sono rientrato, è stato preparato. Ci sentiamo, buona cena, buon tutto, ci aspettiamo alle prossime, ciao. D'accordo.